Com'è bello pensare a un tenero fiore sbocciato sul mare. Un germoglio maturo e così concreto quel sogno futuro. Giornate splendide, le mani timide che poco a poco si conoscono, si cercano, si uniscono. Ed è una favola che piano scivola, il cuore vuole l'infinito e non segue la realtà. E prima di partire tu mi manchi già, prima di dormire quanto passerà. Così lontani non possiamo stare noi, indossa le tue ali ed andiamo insieme dove vuoi. Così lontani non possiamo stare mai, adesso è già domani più di quanto allora pensai. Qui nel verde giardino, in mezzo agli sguardi di tutti e nessuno, con un grande respiro mi riempio le vene di quel tuo profumo. Momenti splendidi, i baci timidi, che poco a poco si conoscono, si cercano di più. Ma prima di partire, tu mi manchi già, prima di soffrire, quanto passerà. Così lontani non possiamo stare noi, indossa le tue ali ed andiamo insieme dove vuoi. Così lontani non possiamo stare mai, adesso è già domani, l'amore non ha occhi, ma solo cuore ha, senza ombra o specchi. Così lontani non possiamo stare noi. Così lontani non possiamo stare mai, domani non ci riuscirei.